275. Folaghe in umido. La folaga, Fulica atra, si potrebbe chiamare uccello pesce, visto che la Chiesa permette di cibarsene nei giorni magri senza infrangere il precetto. La sua patria sono i paesi temperati e caldi dell'Europa e dell'Africa settentrionale, e come uccello anche migratorio viaggia di notte. Abita i paduli e i laghi, è nuotatore, nutrendosi di piante acquatiche, di insetti e di piccoli molluschi. Due sole specie trovansi in Europa. Fuori del tempo della cova, le folaghe stanno unite in branchi numerosissimi, il che dà luogo a cacce divertenti e micidiali. È assai cognita quella con barchetti, chiamata la tela, nelle vicinanze di Pisa sul lago di Massaciuccoli, di proprietà del marchese Ginori Lisci, che ha luogo diverse volte nell'autunno inoltrato e nell'inverno. Nella caccia del novembre 1903, alla quale presero parte con 100 barche cacciatori di ogni parte d'Italia, furono abbattute circa 6.000 folaghe, così riferirono i giornali. La carne della folaga è nera e di poco sapore, e pel selvatico che contiene bisogna in cucina trattarla così. Prendiamo ad esempio, come ho fatto io, 4 folaghe e dopo averle pelate e strinate alla fiamma per tor via la gran caluggine che hanno, vuotatele e lavatele bene. Dopo trapassatele per la lunghezza del corpo con uno spiedo infuocato. Poi tagliatele in 4 parti, gettando via la testa, le zampe e le punte delle ali. Indi tenetele in infusione nell'aceto per un'ora e dopo lavatele diverse volte nell'acqua fresca. Dei fegatini non me ne sono servito, ma le cipolle, che sono grosse e muscolose come quelle della gallina, dopo averle vuotate, lavate e tagliate in 4 pezzi, le ho messe pure nell'infusione. Ora fate un battuto tritato fine con una grossa cipolla e tutti gli odori in proporzione, cioè sedano, carota e prezzemolo, e mettetelo al fuoco con 80 grammi di burro e nello stesso tempo le folaghe e i ventrigli, condendole con sale, pepe e odore di spezie. Quando saranno asciutte, bagnatele con sugo di pomodoro o conserva sciolta in acqua abbondante per cuocerle e perché vi resti molto intinto. Cotte che siano, passate il sugo e in questo unite 1,5 petti di folaga tritato fine e altri 40 grammi di burro per condire con esso e con parmigiano 3 uova di pappardelle o 500 grammi di strisce, che per loro gusto particolare saranno lodate. Le folaghe, con alquanto del loro intinto, servitele dopo come piatto di companatico, che non saranno da disprezzarsi. Tutta questa roba credo potrà bastare per 5 o 6 persone. Ho inteso dire che si ottiene anche un discreto brodo cuocendole all'esso, con 2 salsicce in corpo.